Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale, e questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Siamo tornati a Milano dopo una puntata da Sanremo e nella terza ora, dalle 17 alle 18, questa settimana torna il nostro consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio, per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Ci sono come sempre due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter @MartaCagnola. E l'hashtag, sempre per chi usa Twitter, il sabato del villaggio è un po' lungo, usiamo le iniziali, cancelletto ISDV. Ma ora scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme. Le novità nel mondo della musica. C'è una piccola, grande rivoluzione in corso. A Sanremo ne hanno parlato tutti. Capiremo insieme di cosa si tratta con un ospite che ci verrà a trovare in studio. Non vi anticipo ancora, ma è una cosa molto molto curiosa. E poi le tecnologie con Enrico Pagliarini e i sistemi di riconoscimento vocale. Andremo un po' a curiosare e confrontare. Ma subito il cinema, perché questo è il fine settimana degli Oscar. And join us Sunday night, February 22nd, to celebrate these incredible artists and films at the Oscars with our host Neil Patrick Harris. See you at the Oscars. E quindi è tutto pronto, noi abbiamo già pronto i popcorn, le merendine, le bibite, tutto per stare svegli la notte tra domani e dopodomani, la notte tra la domenica e il lunedì, perché è la notte degli Oscar. Vogliamo sapere tutte le previsioni dal nostro esperto Franco D'Assisti. Buongiorno Franco. Ciao, ciao Marta, un saluto a tutti, non dimenticate neanche delle caffettiere, delle moca da 12. Sì, è vero. Effettivamente servirà. Servirà anche quello, perché poi il clou arriva sempre verso le 4 o le 5 del mattino, quando stai proprio la botta di intontimento da sonno mancato. Però, insomma, sì, come dico sempre io, prima ci sono gli Oscar, ai piantatori di chiodi, agli srotolatori di tappeti, e poi arriva il dunque. No, ovviamente scherzo, esatto, perché poi esatto. Le categorie tecniche sono sempre quelle che ci danno anche occasioni di divertimento e di godimento. Dai, voglio sapere un po' di tuoi pronostici, visto che quest'anno non c'è il dominatore assoluto. Sì, no, le nomination sono abbastanza equamente divise, come sempre le ragioni del cuore di ognuno di noi e le ragioni invece della testa, di quello che pensiamo facciano o abbiano già fatto peraltro i membri dell'Academy, perché ricordiamo che le buste sono già chiuse, i nomi dei vincitori ci sono. Ci sono due persone. Dai. Che sono due responsabili della PricewaterhouseCoopers, che è, diciamo, l'azienda che viene chiamata a fare da notaio sostanzialmente degli Oscar. Vicini di casa al Sole 24 Ore, quindi magari qualcuno. Esatto, e potresti fare un salto. Loro hanno proprio due persone, si chiamano Brad Altmans e Rick Rosas, sono le due persone che hanno sigillato le buste, quelle col vincitore, e le hanno anche dovute imparare a memoria, perché in caso venissero trafugate, loro devono sapere a memoria e sono i giurati veri di quello che è successo in quelle urne. Tu pensa che roba. Saranno quindi sotto chiave anche due, loro? Sì, saranno sotto chiave, sotto una teca blindata da 5 centimetri, inamovibili. No, scherzi a parte, no, non è uno scherzo, è vero, però detto questo, allora, andiamo per importanza. Miglior film è sicuramente quest'anno la categoria più aperta, perché si vota nel miglior film con un sistema proporzionale e non con una preferenza secca, cioè ogni iscritto stila una classifica delle 8 pellicole nominate e gli dà dei voti da 8-1, e quindi è davvero difficile lì capire, avere i rumors. Detto questo, direi che probabilmente Birdman o Grand Budapest Hotel potrebbero essere i due film che si contendono l'Oscar per il miglior film, la mia preferenza personale è su Birdman, però devo dire che Gran Budapest Hotel è un bellissimo film, e forse la sua costruzione filmica, scenografica, eccetera, è tale da poter pensare che a questo, al film di Anderson andranno l'Oscar per il miglior film, e forse a quello di Iñárritu la miglior regia, perché lì c'è tutto un gioco di finti piani sequenza che collega tutto il film, e forse è la cifra stilistica del regista la cosa più forte in questo senso. Anzi, per i bookmakers è un testa a testa per la miglior regia fra Iñárritu per Birdman e Richard Linklater per Boyhood, che è stato un po', se vogliamo, un po' la novità dell'anno anche in termini di linguaggio cinematografico. Forse lì non è tanto la regia in sé quanto l'idea di aver fatto un film prendendo gli stessi attori e vedendoli crescere, quindi avendolo girato nel giro di 10 anni, vedendoli crescere da quando erano ragazzini a quando sono diventati giovani adulti. Per quanto concerne gli attori invece, nella categoria del miglior attore si parla, si vocifera di Eddie Redmayne, lo Stephen Hawking della teoria del tutto, e di Michael Keaton di Birdman, che secondo me dà le spanne. Eddie Redmayne fa un'ottima interpretazione, però è la cosa forse migliore del film della teoria del tutto, che è un film peraltro abbastanza normale, insomma, senza grandi voli di regia. Michael Keaton, come dire, è veramente il ruggito del leone di un attore che somiglia molto al suo personaggio di Birdman, un attore un po' dimenticato a un certo punto e che deve affrancarsi con una grande prova attoriale, appunto. Io punterei su Michael Keaton. Miglior attrice c'è Julianne Moore con la sua interpretazione di Still Alice. Vale anche qua un po' il discorso di Redmayne, è la cosa migliore del film Julianne Moore. Anche Still Alice è un film tutto sommato sì commovente, ma assolutamente canonico, senza grandi voli. Di fronte potrebbe esserci Reese Witherspoon per Wild, qualche speranziella anche per Rosamund Pike per L'amore bugiardo. E poi ci sono gli attori e attrici non protagonisti, e qui mi piace segnalare la probabilità, pare addirittura che sia già presente, già chiusa e scontata sul versante maschile, con già J.K. scritto Simmons sulla busta. Sì, assolutamente. J.K. Simmons, il maestro di musica cattivissimo di Whiplash, che è il film che io adoro e che invito tutti ad andare a vedere finché in sala, perché è una vera esperienza cinematografica. Ci sarebbe anche l'Edward Norton di Birdman, ma difficile che gli facciano fare proprio incetta totale. E sullo sfondo c'è anche Mark Ruffalo per Foxcatcher, che tra l'altro sta per uscire anche nelle sale italiane. Sul piano femminile delle non protagoniste pare che Patricia Arquette per Boyhood abbia già sbaragliato la concorrenza, che era rappresentata soprattutto da Emma Stone, appunto, in Birdman, figlia di Michael Keaton in Birdman. Ecco, questo tanto per dare l'idea un po' di quello che c'è, che si potrebbe muovere nelle categorie principali. Hai già consigliato di andare a vedere Whiplash, che poi è l'ultimo dei film usciti tra quelli molto candidati. Gli altri sicuramente in qualche sala si trovano ancora e si troveranno e riusciranno se vinceranno delle statuette prestigiose. Ma per chi volesse andare al cinema questo fine settimana e riuscisse a trovare qualcosa che non sia 50 sfumature di grigio. Che non sia fatto a sfumature, sì, o che non sia grigio, certo. Che ormai... Beh, guarda, potremmo dire chi non ha ancora visto American Sniper, perché non dimentichiamoci che il fantasma di Clint Eastwood aleggia sopra Los Angeles, e chiaramente questo film qualcosa porterà a casa probabilmente, perché ha avuto anche l'endorsement di Michelle Obama, figuriamoci. Quindi è un film che ha avuto incassi che mai nella vita si pensava potesse tornare a fare Clint Eastwood, quindi davvero è il campione di incassi italiano fino a questo momento, insidiato sicuramente dall'andamento iperbolico di 50 sfumature di grigio, che qualità cinematografiche ne ha pochissime, quasi nulla, ma che invece però ha incrociato un pubblico anche in maniera abbastanza attesa, secondo me anche al di sopra delle attese, francamente. Non mi aspettavo, cioè avevo i dati più recenti, erano quelli di giovedì scorso, giorno di uscita degli altri film della settimana. Ebbene, il primo in classifica era ancora 50 sfumature, con quasi 700.000 euro nel solo giorno di giovedì. Ecco, è una roba che nel cinema francamente si è vista poco. Era come Sanremo, era la gara per il secondo posto ormai. Assolutamente, ma con distanze siderali però. Sì. E infatti la programmazione di questa settimana è 9 film, tanta roba, un paio di film che potrebbero, come dire, non dico andare primi in classifica, perché secondo me non c'è dubbio ci sarà ancora 50 sfumature, ma che potrebbero comunque fare bene al botteghino, come Mordecai, è un film grottesco, comico, surreale, con un Johnny Depp e Gwyneth Paltrow, ma mi piace pensare soprattutto a Johnny Depp che cerca in quest'uomo coi baffoni, mercante d'arte, un po' sui generis, anche una sorta di consacrazione anche lui. Johnny Depp ha bisogno di uscire dai ruoli del successo, sembra un po' il personaggio di Birdman, no? Cioè è Jack Sparrow, ormai lo sarà per tutta la vita, però finito quello, un uomo ormai di 52 anni, un attore in una maturità artistica, ha bisogno di un ruolo che lo porti fuori da quello schema, e lo ha cercato in questo Mordecai, che è una cifra stilistica non facile, quella del surreale, del grottesco, che secondo me loro tengono abbastanza bene. Il film italiano, la proposta italiana è Noi e la Giulia, Edoardo Leo regista, il clan è quello che ha firmato parecchie commedie, diciamo, anche abbastanza riuscite degli ultimi anni, come Smetto quando voglio, tanto per dirne una. Dopodiché abbiamo un paio di proposte molto d'autore, che sono Il segreto del suo volto, di Christian Petzold, che è un film che lavora sul concetto di memoria, però ricorda certe atmosfere addirittura hitchcockiane, cioè siamo nella Seconda Guerra Mondiale, dopo il ritorno dai lager, una donna col volto completamente diverso deve recuperare se stessa, quello che era, e forse anche fare un gioco di memoria che però tende a rimuovere l'incubo dei campi di concentramento. Un film veramente molto molto importante, che forse sarebbe stato meglio far uscire il 27 gennaio con la giornata della memoria, o il 25 aprile con il 70° della liberazione, però insomma è un film sicuramente da vedere, così come Il piccione, quello che abbiamo ormai chiamato Il piccione, perché il titolo è chilometrico, alla Vermüller, un piccione seduto sul ramo riflette sull'esistenza, di un regista ultra settantenne, Roy Anderson, che ha vinto il Leone d'Oro con questo film all'ultimo Festival di Venezia, e che è una storia che puoi odiare o amare, non ci sono mezze misure. Certo ti rimarrà in mente, perché cinematograficamente è una cosa che sta un po' dove c'è Kaurismäki, sta un po' dove ci sono i Monty Python, ma sta anche in zone del cinema ancora non frequentate, e vedere questa capacità di fare cinema visivo da parte di un 71enne è una cosa che chiaramente fa un certo piacere. Chiudo giusto dicendo che c'è poca roba per i bambini, c'è giusto un Pokémon il film, ennesimo capitolo, ma insomma a chi gli piace lo sa, ma non c'è nulla, in attesa di Cenerentola non c'è nulla che metta insieme la famiglia. Ci sono due horror però piuttosto interessanti, La piramide, che dice già tutto, cioè Egitto, archeologi incastrati e dentro c'è uno spirito che non gli vuole molto bene, e Il settimo figlio invece, che è di un regista importante russo che è Sergei Bodrov, con nel cast due nomi importanti come appunto la candidata agli Oscar Julianne Moore e Jeff Bridges, ed è la storia di le forze soprannaturali che stanno per scaraventarsi e per sterminare l'umanità per come la conosciamo. L'unico a potersi opporre sarà Tom Ward, che è un settimo figlio di un settimo figlio. Ricorrono i numeri, la cabale, tutto quello che vuoi. Sono due horror che ridanno una bottarella al genere un po' spento negli ultimi tempi, e per gli amanti di questo tipo di film sicuramente è un buon programma. Vabbè, dai, ce n'è da vedere al cinema questo fine settimana in attesa della maratona tra domenica e lunedì. Poi faremo i conti la prossima settimana per vedere se ci hai preso, Franco. Assolutamente, ci proviamo. Poi ne riparliamo ovviamente dopo il GR delle 18 con la Rosa Purpurea oggi, questo pomeriggio. Vi aspetto. I'm Neil Patrick Harris. Join me as I host the Oscars. It's looking like it's going to be an amazing show. Anything can happen. Anything. E questo era Neil Patrick Harris, e questo era lo spot che annuncia proprio la trasmissione degli Oscar. Una buona notizia per l'Italia, perché per un sacco di anni a vedere gli Oscar erano solo gli abbonati di Sky, quelli che avevano il pacchetto cinema ad esempio, ma quest'anno io sono molto contenta di poter dire che gli Oscar, la cerimonia degli Oscar, dalla red carpet in poi andranno in onda anche in chiaro su Cielo, quindi dalle 22:50 il collegamento con il red carpet e poi alle 2:30 la cerimonia ufficiale di premiazione in diretta dal Dolby Theatre, che insomma è una bella cosa perché andrà in onda anche in chiaro. Sempre per quanto riguarda gli Oscar, l'anno scorso c'era l'attesa per La grande bellezza, anche se a un ascoltatore che non si firma ma che ci ha scritto al 349-238-6666 non è piaciuto e ha scritto: da quando hanno dato l'Oscar alla grande bellezza non credo più a una giuria seria e onesta. Quindi un ascoltatore arrabbiatissimo con l'Academy, perché dopo un anno ancora La grande bellezza non gli è piaciuta. Vabbè, insomma, però Quest'anno l'attesa è tutta per Milena Canonero, costumista torinese, già super super premiata, candidata 9 volte agli Academy Awards, ha vinto 3 volte, ha vinto per Barry Lyndon, ha vinto per Momenti di Gloria e recentemente per Marie Antoinette, alla 4ª candidatura ed è favorita perché ha vinto anche il Costume Designers Guild Award 2015. È la favorita, vedremo se ce la farà, deve sfidare i costumisti di Vizio di Forma, di Maleficent e di Mr. Turner. Insomma, vediamo se domenica Milena Canonero se le vedrà. Tutto questo domani sera, anzi domani notte. Noi adesso dobbiamo dare la linea alle nostre informazioni sul traffico e tra poco parleremo di tecnologia. Il sabato del villaggio. 15 minuti e 53 secondi al sabato del villaggio di Radio 24. Allora, adesso vi devo raccontare un retroscena, perché in questo momento è scappato fuori dallo studio e sto aspettando che rientri. Cosa è successo? Questo sabato abbiamo deciso di anticipare l'appuntamento con Enrico Pagliarini di circa 15 minuti, perché Enrico, adesso lo sentite tornare in studio, eccolo qua. Eccoci qua. Deve fare anche il giorno delle radio delle 16. Deve fare anche il giorno delle radio delle 16. Ma cosa è successo? Non arrivava. Cioè, alle 15:13 minuti non era ancora qua. Ma io ero convinta che sarebbe arrivato. Anche sono da solo. È entrato in studio, mi dice non dirlo, lo dico. Ha detto fino a 15 minuti fa ero in casa nudo. Quasi, Enrico. Ma siccome ogni volta per accoglierti ti chiedo il tema per trovare una canzone che possa andare bene, hai scoperto? Non lo so, guarda, settimana. Ho cercato a caso su YouTube e ho trovato questa. Sentiamo. Cos'è? Want to hear a joke? Two iPhones walk into a bar. È Siri che canta? Questa è Siri. È Siri che canta. La canzone Siri. Di Zuli si chiama proprio Siri Says. È proprio Siri che canta. Ma perché hai davanti tutti quei telefonini? Adesso guarda, tra poco adesso li twitto. Hai davanti un sacco di telefonini. Perché tutti questi smartphone? Allora, partiamo dal futuro. Okay. Sì, sì. Una delle cose che dicono spesso gli esperti. Aspetta, che spegniamo qua, scusa. Una delle cose che dicono spesso gli esperti. E lo smartphone ha scritto una delle cose che dicono spesso gli esperti, mi ha sentito e ha scritto questa cosa, poi spieghiamo perché, è che uno dei prossimi step tecnologici saranno degli assistenti virtuali veramente intelligenti. Ad oggi noi abbiamo degli assistenti virtuali che sono poco intelligenti, anche se i produttori dicono che sono intelligenti, però oggi vorrei attirare la vostra attenzione su cose che noi abbiamo. Se abbiamo uno smartphone abbiamo anche gli assistenti virtuali, o comunque abbiamo un sistema di riconoscimento della nostra voce. Sì. Molto ben fatto, quindi banalmente noi possiamo scrivere un SMS parlando allo smartphone. Ok. Allora, partiamo da alcune dimostrazioni facili, poi vi dico magari qualcosa sui sistemi operativi, però direi che quasi tutti i sistemi operativi hanno la possibilità, quindi parliamo di iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry anche, di riconoscere la nostra voce e fare delle operazioni. Ad esempio, noi diciamo al nostro BlackBerry: chiama Marta Cagnola. Tu hai il telefono acceso? Cioè non sì, dovresti adesso, averlo acceso. Beh, però adesso lo accendo, metto anche la suoneria. Vabbè, allora facciamo un po'. Chiama Marta Cagnola. Attenzione. Adesso lui ci mette un po', deve pensare. Ah, deve decidere? Sì, in realtà non lo so. In realtà non, io non dovrei parlare, questo è il motivo per allora, cui dovrei stare zitto dopo che ho detto la cosa. Stiamo zitti. Ok. Chiama Marta Cagnola. Selezionare un contatto. Ok, perché io ho più di un contatto tuo. Chi vuoi chiamare? Adesso naturalmente non funziona. Beh, vedi, no, ma non ci posso credere. Allora, hai detto che non erano intelligenti. Allora, facciamo la prova dall'inizio così. Aspetta, così attiviamo. Tanto mi chiamerà chiunque adesso. Non è stata compresa. Stiamo usando un BlackBerry in questo caso. Adesso, adesso partiamo la BlackBerry da zero. Dobbiamo rimani zitta. Ok. Chiama Marta Cagnola. richiesta vocale non è stata. Vabbè, cambiamo il sistema operativo. Questa mattina ho fatto tutte le mie prove. Allora io penso, Paolo Corleone, tu dovresti abbassare la base, perché io ho le cuffie molto alte, quindi è per questo motivo che fidati di me, Allora, facciamo la prova dall'inizio. Attenzione. La richiesta vocale. Aspetta, no, però non ho spiegato. Vuoi inviare un messaggio? Chiama Marta Cagnola. Non vuole chiamare. Vabbè, cambiamo sistema operativo. Allora, usiamo Siri e Android, quindi Google Now e Siri. Allora, possiamo fare delle cose. Io posso dire, scrivi un messaggio a Marta Cagnola. Ok, cosa vuoi scrivere a Marta Cagnola? Ciao, come stai? Vuoi inviarlo? No. Vabbè, è una prova. Ok, non me lo invito. Allora, posso chiedere delle cose anche un po' più intelligenti per fare bella figura? Sì. Una cosa importante è usare linguaggio naturale. Quindi, così come noi parliamo, noi dobbiamo parlare al sistema operativo. Cosa ha fatto la Juve? La Juventus ha sconfitto l'Atalanta con un punteggio di 2-1. Spero che sia vero, non lo so se è vero. Io mi fido. Allora, qual è la prossima partita della Juventus? Non ho il calendario di nessun incontro tra la Juventus e la Juventus. L'ho pronunciata male. Qual è la prossima partita? Non so se ho capito bene. Dobbiamo stare zitti. Zittissimi. Qual è la prossima partita della Juventus? L'incontro Juventus-Borussia Dortmund è questo martedì alle 21:15. Quando gioca il Milan? L'incontro Milan-Cesena è domani alle 15. E la Roma? L'incontro Verona-Roma è domani alle 15. Quindi io non devo ripetere la domanda, qual è la partita? Lei capisce, eccetera, eccetera. Precedente. Allora, posso fare anche delle cose del tipo, ricordami che fra 8 minuti devo uscire dallo studio. Ecco il promemoria. Vuoi crearlo? Sì. Perfetto, lui me l'ha scritto. In realtà poi non li usiamo tantissimo questi sistemi. E infatti è per quello che io... Ok, perfetto. Lui mi ha detto, ti ricorderò. Che devi uscire dallo studio. Infatti questo è uno dei motivi per cui vorrei dire agli ascoltatori, provate questi sistemi che normalmente funzionano, se uno non è in uno studio impicciato con mille cose, normalmente funzionano. Funzionano fino ad un certo punto, infatti è per questo che dico, tra un po' avremo degli assistenti virtuali veramente intelligenti, perché oggi di fatto rispondono a tante cose che o vanno a cercare su internet o cercano sullo smartphone, quindi sono intelligenti fino ad un certo punto. Io posso chiedere, che ne so, dove si trova un ristorante, ma quando vado a chiedere dammi un consiglio su quale ristorante dovrei utilizzare per invitare a cena una persona, ecco lì, diciamo, si crea un po' di confusione. Allora, posso fare delle cose del tipo, quanti, adesso vi faccio vedere anche, anzi vi faccio sentire, perché alcune intanto cose si potrebbero fare vedere. Intanto io ti fotografo e ti twitto con tutti i telefonini. Quanti chilometri ci sono per andare in Piazza Duomo? Il tragitto dal luogo in cui ti trovi a Duomo di Milano è di 6,3 chilometri. Perfetto, lei mi ha dato una risposta. Ma tu mi sai dire perché sono tutte donne le voci? Allora, Siri è una donna. No, in realtà potresti anche impostare. Puoi cambiare. Se vuoi, ti scelgo un uomo. Okay, no, puoi cambiare tutto quello che vuoi. Puoi fare delle domande del tipo: quando è nato Alessandro Volta? Alessandro Volta è nato il 18 febbraio 1745. Ah, vedi. Che cosa ha inventato Alessandro Volta? Pila. Ha inventato la pila. Però non sempre sono bravi. Questo, in questo caso sto usando Google Now. Non sempre sono bravissimi, perché se io chiedo che cosa ha inventato Guglielmo Marconi, non mi risponde. Mi fa vedere Wikipedia relativa a Guglielmo Marconi. Però diciamo in questo che per caso, noi che siamo alla radio è un po' grave. Posso fare delle altre cose, tipo sono in giro, voglio fare un calcolo veloce. Mm-hmm. 24 per 5 più 12. 24/5 più 12 pari a 132. Voglio sapere ieri sera, venerdì, quanto ha chiuso alla borsa di New York l'azione, che ne so, della Apple, che è molto nota, famosa, eccetera, eccetera. Quanto vale l'azione dell'Apple? Ieri il titolo Apple ha chiuso con un aumento del 0,82%, attestandosi a $129.50. Attestandosi. Allora, devo anche dire che se siamo bravi in inglese, forse è meglio settare questi sistemi in inglese, perché nascono negli Stati Uniti, e quindi allora stiamo parlando di sostanzialmente tre competitor, che sono Google Now di Google, che esiste per, vedi, lui adesso si attiva quando dico Google Now e mi ascolta, che esiste per sistema operativo Android, ma esistono le applicazioni anche per altri sistemi operativi, Siri di Apple e Cortana di Windows Phone. Non mi sentirei di dire che uno è meglio dell'altro, anche perché non penso che ci sia nessuno che sceglie lo smartphone in base all'assistente virtuale, anche perché poi la gente lo usa poco, in effetti, però è utile perché fa molte cose. Se vuoi rifacciamo la prova del chiama Marta Cagnola, anche perché Maurizio ha scritto il bello della diretta, l'ha scritto via SMS, riproviamo a fare la telefonata, vero, però dovete stare zitti, anche Paolo Corleone con sta base non bisogna che stare. Chiama Marta Cagnola. Selezionare un contatto. No, evidentemente non ho il tuo numero di telefono. Io non ci credo, non ci credo. E qua non è colpa della base, Paolo. Paolo Corleone ti sgrida. Niente, poi rifacciamo la prova, perché in diretta non c'è riuscita. Io mi sono fatto anche leggere le email, eh. Ah, te le legge? Magari è comodo mentre si guida. Allora ti chiedo proprio, allora, a questo punto, visto che le usiamo poco, ci hai spiegato un po' di usi possibili di questi assistenti vocali. Secondo te a cosa davvero potrebbero servire, al di là del gioco di farsi leggere le barzellette? Sì, in realtà sono sicuramente già utili oggi, quando noi non possiamo usare le mani guidando, per e soprattutto dire, quando siamo da soli, per non sembrare scemi che parliamo con un aggeggio. In effetti difficilmente noi vediamo qualcuno su un mezzo pubblico, in treno, parlare con lo smartphone. Anche io incontro poche persone che usano questi sistemi, però anche solo per prendere appunti, quindi non nella parte intelligente, perché il riconoscimento vocale è un sistema molto molto semplice, però anche nella parte per prendere appunti sono molto comodi, perché effettivamente negli ultimi anni sono migliorati molto e il riconoscimento della nostra voce è piuttosto buono, quindi noi possiamo prendere, soprattutto per gli appunti, per i quali non siamo precisissimi, possiamo anche passarci su, devo dire che sono molto comodi per inviare un SMS quando non abbiamo possibilità di usare le mani, oppure anche se vogliamo fare prima, perché effettivamente è molto più semplice, soprattutto per i messaggi semplici, molto molto brevi, chiedi a Marta dove va questa sera. Allora lui scrive direttamente dove vai questa sera, però quindi non mi telefona, perché abbiamo capito che non è in grado di telefonare. Però non telefono, però visto che io sono un po' un testone, se sentite suonare il mio cellulare, che lascerò acceso, no adesso lo devo spegnere, riproviamo. Facciamo l'ultima volta, prova. Dai, proviamo. Chiama Marta Cagnola. Secondo me va. Vuoi chiamare il numero di cellulare di Marta Cagnola? Sì. Chiamata. Sentiamo se la fa. Noi ci siamo. Il telefonino è acceso. La suoneria c'è. Non lo so, secondo me sì, Enrico Pagliarini, eccolo qua. Allora, naturalmente gli ascoltatori diranno: ma guarda com'è complicato. Ma in realtà nella vita di tutti i giorni, se non state facendo una prova alla radio, funziona tutto. Funziona benissimo. Funziona subito. Perfetto. Enrico, allora quindi noi ci ritroviamo la prossima sabato col sabato del villaggio, ma voglio sapere anche gli appuntamenti con 2024 e con il podcast, ovviamente. Ah, il podcast è già disponibile. Straordinario. Noi ci vantiamo di avere il podcast più veloce del mondo. Io sto cercando a volte di sfidarti, ma non è così pronto anche prima che la trasmissione finisca. Vabbè, sei un pazzo. E abbiamo abbiamo parlato di una cosa importantissima, di backup, cioè non solo, abbiamo parlato anche di altre cose, però con uno dei nostri esperti molto bravo abbiamo parlato di backup, cioè di salvataggio sicuro dei dati, cosa che non so in quanti fanno, perché bisogna avere un po' di disciplina. Io sono brava, in questo sono brava. Un po' di ordine, e quindi quello è uno dei problemi. Che cosa vogliamo chiedere ai nostri assistenti virtuali? Non lo so, si può sapere chi è in cima alle classifiche dei dischi? Non lo so se ce lo sa dire l'assistente virtuale, perché noi adesso tra qualche istante parliamo di classifiche di musica, parliamo non solo, ma un discorso molto interessante. Proviamo, se lo sa, proviamo. Chi è il primo nella classifica dei dischi in Italia? Allora, non me lo dice. Però te l'ha mostrato. Però Negramaro. Non è sbagliato? No, secondo me no. Vabbè. Seconda scelta Cesare Cremonini. No, adesso abbiamo al top Tiziano Zero. Ferro. No, non siamo aggiornati. In questo caso Google Now non c'ha, ecco, non c'ha allora, nulla. Enrico, però, noi... però ha scritto chi è il primo nella classifica di dischi in Italia. Ha perfettamente. Capito la domanda, capito, ma non ci ha dato la risposta giusta. Comunque, l'invito che volevo fare, ed è anche un po' il motivo per cui abbiamo giocato con questi assistenti virtuali, è che questa tecnologia a volte funziona molto bene ed è molto comoda. Quindi io vi invito, visto che molto probabilmente molti ascoltatori ce l'hanno disponibile, già pronta sul loro smartphone, provateli e mettetevi alla prova. Poi loro imparano anche, certo, perché questo è un fatto. Certo. Adesso io cambio effettivamente molto spesso smartphone, quindi potrebbero essersi anche un po' incasinati. Maurizio scrive che forse non avevi il mio numero, no, l'ha dimostrato, ce l'ha. Grazie, sì, Enrico, sì. Ci sentiamo prestissimo. Grazie a voi, buona grazie. Giornata. Grazie, noi ci ritroviamo tra pochissimo ancora col Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E ci ritroviamo con la seconda parte della prima ora del nuovo sabato pomeriggio di Radio 24, che è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, libri e musica. Questa volta siamo tornati dopo la settimana sanremese nella quale abbiamo trasmesso da Sanremo, ma rimaniamo ancora un po' in con l'aria, con l'atmosfera di Sanremo, ascoltando un breve estratto di un pezzo e tra poco vi spiego perché. Pensa a questa stanza, a una conquista, a te che dormi mentre sei qui nascosta tra cielo e terra, diventi aria e cresci. Allora, prima io ho chiesto a Enrico Pagliarini di chiedere alla sua assistente virtuale che era in cima alle classifiche di Fimi GFK. Non è stata capace l'assistente virtuale perché evidentemente ha recuperato delle classifiche un po' vecchie. Allora, dopo Sanremo, al top dei dischi più venduti resta Tiziano Ferro, ma è stato anche ospite a Sanremo, quindi ha un po' rinverdito i fasti di questo album fantastico di Tiziano. Ma al secondo posto ci sono i Dear Jack, sui quali si appuntavano anche un po' di speranze per un piazzamento un po' più forte, però io credo che alla fine vendere bene sia addirittura più importante che piazzarsi bene a Sanremo. Perché parliamo dei Dear Jack? Perché i Dear Jack sono, come altri artisti del festival, protagonisti di una vera e propria rivoluzione. È un argomento molto interessante. Cosa sta succedendo? Io direi che tutto si può condensare in una parola che il nostro ospite, che è qua in studio, che adesso sto per presentarvi, ha già condensato in un hashtag twittando qualche istante fa: disintermediazione. Allora, il sostantivo sembra difficilissimo, ma è il fenomeno che sta accadendo adesso nella musica. È un vero e proprio boom. Cerchiamo di capire perché. Abbiamo in studio Claudio Ferrante. Buongiorno Claudio. Buongiorno Marta. Allora Claudio, abbiamo fatto un pranzo a Sanremo, dobbiamo raccontare, io racconto sempre in retroscena, io proprio senza vergogna, e siccome abbiamo parlato di questo argomento mi sono molto incuriosita, mi sono talmente appassionata che ho detto no, devo parlarne in radio, perché poi sono quegli argomenti che poi si usano anche a cena. Sì, sì, sì. È un argomento molto interessante. ristorante, oltre che appunto ne abbiamo parlato a pranzo. Allora, intanto per presentarti, Claudio, tu hai un passato di dirigente, una discografia piuttosto importante. Poi a un certo punto hai deciso di non fare più il dirigente di una major, cioè di un'etichetta, sì, ma di fondare una realtà un po' diversa. E qui entriamo in questo concetto che è difficilissimo, ma è molto interessante, di disintermediazione. Artist First, sì, per citare l'azienda di cui tu ti occupi. Cosa sta succedendo nel mondo della musica? I cantanti, gli artisti, diciamo così, scelgono di non appartenere più a un'etichetta. Succede così? Sì, succede così in realtà, perché nel 2009, tutto parte nel 2009, quando Renato Zero decide di lasciare una major per mettersi in proprio, quindi prodursi il disco in studio e naturalmente tutta la parte promozionale, occupandosene, quindi facendosene completamente carico, e contattò il suo manager, il manager di Renato Zero, contattò una società che si occupava della logistica e della distribuzione dei dischi, che quindi non avesse alcun tipo di scelte editoriali, artistiche, quindi una pura società. Quindi non creatività, ma, se posso dirla, trasporto. Mezzi e consegne nei negozi. Quindi l'artista dice: mi faccio io la parte artistica, voi vi occupate della parte produttiva e logistica. La cosa curiosa è che il manager di Renato Zero contattò il centralino di questa società di distribuzione. Ah, straordinario. E disse: vorrei parlare con qualche addetto della distribuzione. Quindi, dopo vari giri di centralini tra un ufficio e l'altro, parlarono con la persona giusta, e Renato Zero, l'album presente, quindi uscito nel marzo del 2009, fu un grandissimo successo di vendite, oltre 450.000 copie vendute. Con quella società, grazie a questo, poi si era un po' notato, sentito il fermento degli artisti, che c'era un po' di malcontento. In realtà c'era un sistema di artisti che erano intorno a delle case discografiche multinazionali, sostanzialmente, e quindi si sentivano un po' dei polli in batteria, delle creature sostanzialmente lasciate lì e curate soltanto nel momento dell'uscita del disco. C'era del fermento, e quindi io captai nel 2009 che effettivamente era arrivato probabilmente il momento di lasciare la discografica. Io ero direttore generale di Carosello Records, che è un'azienda indipendente che peraltro oggi distribuiamo, è diventata mia cliente, però ecco, devo dire che quel tipo di esperienza mi ha lasciato davvero tanto, mi ha fatto capire che probabilmente il mondo stava cambiando, e quindi decisi di lasciare, mettermi in gioco e fondare, insieme a questa società che Renato Zero aveva contattato al centralino, attraverso il suo manager, così, naturalmente non lui, di fondare un polo alternativo alla discografia tradizionale. Quindi Renato Zero, poi sono arrivati Mario Biondi, i Pooh, i Nomadi, gli After Hours. Che cosa succede? Che loro in pratica curano la parte creativa e artistica, non c'è più il vero e proprio produttore, stanno scomparendo i produttori nella musica. Voi invece cosa fate? Cosa fanno queste società per disintermediare? Beh, sto imparando a dirlo. Sostanzialmente i produttori esistono ancora, ma esistono dei produttori che si occupano del lavoro in studio. Tutto invece quello che riguarda la parte del lancio, quindi la commercializzazione del CD o la commercializzazione del file musicale, viene esternalizzato a società che in realtà lo fanno, come la nostra, con un'interlocuzione però artistica, nel senso che non è che oggi tutti gli artisti possono andare dalle società di distribuzione e dire: distribuiscimi un disco. C'è un tipo di lavoro che viene fatto, per esempio i Pooh, che sono stati tra i nostri primi clienti, sostanzialmente già facevano tutto loro e davano ad una major la distribuzione, però oggi fondamentalmente nasce l'esigenza di andare in una società specializzata nella distribuzione, proprio perché ci sono anche molti più vantaggi economici. Probabilmente l'artista oggi, investendo tutto di tasca sua, può prendere molto di più di quanto prenderebbe attraverso i canali tradizionali. Anche anche perché mi dicevi che adesso per confezionare un bell'album, un album fatto bene, ci vogliono 40-50 mila euro. Sì. E non è una cifra da poco. Non è una cifra da poco, però non sono nemmeno i 500 milioni delle vecchie lire di 20 anni fa. Quindi, di un tempo. Di un tempo. Quindi anche questo è l'aspetto positivo, se vogliamo, con l'accessibilità ai computer, ai software. Oggi puoi creare un disco anche con un laptop, con un computer portatile normalissimo, che ha dei software molto sofisticati che ti consentono davvero di registrare, di fare anche dei suoni interessanti. Però quello che oggi contano sono le idee che arrivano direttamente al pubblico, senza nessuna casa discografica che fa le sue scelte. Il Festival di Sanremo, di cui parlavi prima, è un festival stato degli artisti, degli imprenditori musicali e degli artisti. Dicevi che 11 artisti su 28 in gara arrivavano da etichette indipendenti, da produzioni indipendenti. E una cosa divertente che mi ha raccontato Sanremo, che dicevi che un tempo Pippo Baudo incontrava i discografici, sì. Adesso invece Carlo Conti chiama gli artisti. Ha chiamato gli artisti. O ha chiamato le società indipendenti che sapevano produrre gli artisti. Giovanni Caccamo, vincitore dei giovani, è una scoperta di Caterina Caselli, che non è una major, ma è una società indipendente. Ecco, è un'imprenditrice che caccia i soldi da sola. Che caccia i soldi, che ce li mette, che lavora con grande passione. E devo dire che oggi gli imprenditori come lei o come anche Carosello, che sono dei laboratori in cui davvero si lascia spazio e si lascia tempo agli artisti giovani, emergenti, di crescere, cosa che oggi comunque non avviene più nel sistema major tradizionale, perché quello si rivolge ad altri tipi di scoperte. Ecco, gli artisti, è molto più difficile per un artista uscire oggi nuovo, uscire da una major piuttosto che da una società indipendente. Io credo che oggi sia tornata l'epoca in cui gli artisti, gli editori indipendenti, i produttori indipendenti tornano a fare un grande laboratorio per i successi di domani. Non possiamo pensare che il ricambio generazionale non avverrà mai in questo paese, anche dal punto di vista musicale. Secondo me mi piace questo spirito, che è anche un bello spirito da sabato, che insomma possa rinascere l'imprenditoria italiana. Claudio, ti chiedo solo qualche attimo di pazienza, perché adesso abbiamo tutti gli aggiornamenti sulla viabilità, però poi torniamo ancora con Claudio Ferrante di Artist First. Mi piace molto scoprire queste nuove frontiere, questo nuovo fenomeno, questo nuovo boom della discografia. A tra qualche istante. Il sabato del villaggio. Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere, abbracciami, rendimi felice, come quell'uomo che ama, ma che non lo dice. Alex Britti, sempre da Sanremo, sempre uno degli artisti che hanno scelto questo modello di produzione, di distribuzione, modello del quale stiamo parlando con Claudio Ferrante di Artist First, che è venuto a trovarci. Io sono molto contenta, Claudio, che tu sia venuto. Alex Britti era uno di quelli che stai distribuendo, sì. Tu. Io però ho questa curiosità. L'artista che diventa imprenditore, però paradossalmente è più facile per i Pooh, per Renato Zero, per gli artisti già emersi, che hanno già un loro pubblico e tutto. Invece per gli artisti giovani come fate? Perché a te capita anche spesso, io mi sono segnata Salmo, i Santa Margaret. Come si agisce con i giovani? Ecco, con i giovani hai citato i Santa Margaret, che sono una scoperta di Carosello. Come ti dicevo prima, nelle società indipendenti è molto molto più facile trovare qualcuno appassionato. Dario Giovannini, direttore generale di Carosello, è attualmente colui che ha scoperto Santa Margaret, ma per un giovane, anche Salmo ad esempio, che era allevato dalla etichetta Tanta Roba, che nel mondo del rap era un'etichetta rappresentativa, certo. Sono sostanzialmente artisti che, grazie anche a YouTube ha disintermediato, se vuoi, anche MTV. Prima, quando ero discografico, portavo un video a MTV, e chiedevo al responsabile se gli piacesse, se, certo, se potesse piacere al gruppo d'ascolto, al cosiddetto TAM, quello si chiamava TAM, Talent. Fantastico, c'era proprio un tavolo, un comitato che selezionava i video. Quindi se eri nelle loro caratteristiche, nel loro formato televisivo, lo trasmettevano. Se però il video, potevi aver fatto il video più bello del mondo, se a loro non piaceva, quel video non andava in onda. Oggi con YouTube chiunque può farsi un video, chiunque può produrre un video. Oggi produrre un video può costare 2-3 mila euro, anche un video interessante con tutte le tecniche digitali che ci sono, e metterlo online. E se riesci a fare della viralizzazione del video, quindi farlo girare, metterlo sul blog, postarlo eccetera, quel video può farti 100.000 viewers e quindi darti la possibilità di arrivare direttamente alla gente. Quindi MTV è stata disintermediata, e se vuoi oggi è uno dei canali televisivi, comunque musicali, più seguiti. Però oggi c'è YouTube, una persona non può aspettare 2 o 3 ore per vedere il proprio video preferito, clicca e se lo va a vedere. E questo ha disintermediato anche una scelta editoriale di una televisione, che oggi comunque ha anche altri contenuti oltre alla musica, quindi ci sono fiction, ci sono reality, eccetera. E questa disintermediazione anche nella musica è avvenuta. Alex Britti, ad esempio, è un imprenditore, è uno che ha il suo studio di registrazione, decide lui cosa fare, ha deciso di andare a Sanremo semplicemente distribuendo il suo singolo, e la cover che ha presentato, e basta. E decide di pubblicare l'album magari quest'autunno, con logiche commerciali che sono completamente cambiate. Ecco, un tempo l'album doveva uscire subito nella settimana di Sanremo, adesso non succede più. L'anno scorso andò benissimo l'album di Renga, che aspettò un bel po' di tempo. 4 settimane. Ecco, sì. Quindi adesso non è più necessario uscire la settimana di Sanremo il giorno dopo l'esibizione con l'album. No, si può scegliere anche di aspettare un mese e mezzo. NEC uscirà tra qualche settimana. NEC che è al top sia col singolo che con la cover, ha fatto un gran Sanremo, ma anche NEC, che è distribuito da un'autorità major, tutto il lavoro che ha realizzato lo ha realizzato grazie anche al supporto di un manager come Gabriele Parisi, che oggi, grazie alla sua esperienza, ha creato un piccolo team di produzione intorno all'artista. E quindi quello è artigianato. Quello che oggi, quello di cui non si parla, è che è fondamentale il ruolo di queste persone che rischiano in proprio, che non percepiscono uno stipendio, che ci mettono dei soldi e dicono: benissimo, creiamo adesso, mettiamo intorno a NEC delle persone che possano lavorare. Impiegano del tempo, quel tempo non è pagato da nessuno se non dall'aspettativa di quello che potrà realizzare questa produzione tra qualche mese. Quindi dimentichiamo spesso tutti quelli che lavorano dietro le quinte e che sono comunque imprenditori di se stessi, che lavorano non pagati da nessuna casa discografica multinazionale e che sono semplicemente degli operatori del settore che aspettano di riuscire a realizzare con l'artista quello che hanno progettato magari qualche mese prima. Quindi sta cambiando tutto. Noi spesso parliamo della musica liquida, della musica digitale, però anche dal punto di vista imprenditoriale sta cambiando tutto, e l'abbiamo sentito già. Sanremo è stato il segno di questo cambiamento, con 11 artisti su 28 che hanno prodotto i loro dischi in questo modo. Claudio, con Artists First i prossimi che cosa bolle in pentola? Bolle in pentola per Artists First la firma che è stata fatta circa 3 settimane fa con il Teatro degli Orrori, che è una band alternative molto molto interessante, che ha deciso di iniziare un percorso completamente indipendente con noi. E io sono molto contento perché l'album che uscirà molto probabilmente in autunno è un album assolutamente molto interessante, che li vede un po' tornare alle origini, se vuoi. Quindi mi è piaciuto anche l'approccio di Elio e le Storie Tese, che sono degli altri nostri clienti, che hanno deciso davvero di percorrere anche loro una strada completamente indipendente, libera da logiche di multinazionali, che sono logiche che lasciano un artista all'interno di un recinto. E invece oggi non puoi pensare, nel 2015, con tutto ciò che invece arriva direttamente alla gente, di mettere qualcuno in un recinto soltanto perché gli hai fatto un contratto e perché gli hai dato magari dei soldi in acconto per le future vendite. È cambiato questo sistema, per fortuna. E mi piace molto il fatto che anche ormai le major stiano un po' seguendo le vostre orme. Grazie a Claudio Ferrante, grazie per essere stato con noi. Artist First è la tua società e soprattutto è quello che sta guidando un po' il cambiamento, un cambiamento che già avevamo visto un po' negli Stati Uniti. Mi interessa molto questo fenomeno, sono sicura che anche gli ascoltatori del Sabato del Villaggio sono molto stupiti di quello che sta succedendo e se ne parla molto poco. Grazie, ti aspettiamo di nuovo. Grazie Claudio. Marta, prestissimo. Noi abbiamo aperto questa puntata parlando di cinema, con l'attesa degli Oscar, ma anche delle uscite in sala. Claudio, stai qui con me, ascolta, non so se sei appassionato di cinema, perché tra i film che vanno all'assalto del botteghino questa settimana c'è Noi e la Giulia di Edoardo Leo, che il nostro Paolo Corleoni in regia ha visto ieri sera e gli è piaciuto molto. La storia di un gruppo di quarantenni che si incontrano per caso perché hanno in comune un piano B esistenziale: aprire un agriturismo. Ma ci si mette di mezzo la camorra e tutto questo è raccontato in commedia. Sergio va di là, gli chiede scusa e risolviamo tutto. E certo, perché i camorristi sono persone comprensive, no? Andiamo di là, gli chiediamo scusa, gli offriamo un barattolino di marmellata fatta in casa e a posto così dobbiamo chiamare la polizia. Se lo denunciamo per estorsione, finiamo in un programma di protezione. Ma tanto ci trovano e ci ammazzano. Ecco perché il casale costava così poco. Altro che diatriba familiare, quelli sono scappati. Allora seguiamo l'esempio e scappiamo pure noi. Ma scappiamo di corsa subito, eh? Noi non ci vogliamo da qui, piuttosto facciamo sparire lui. No, Sergio, io non faccio sparire proprio nessuno, ma per chi ci avete? Lo facciamo sparire in cantina, lo chiudiamo lì, apriamo l'agriturismo, rientriamo dalle spese e scappiamo. E torna in questo film una delle combinazioni più riuscite della scorsa stagione, quella di Smetto Quando Voglio. Edoardo Leo, appunto, che è anche regista, oltre che protagonista, insieme a quello che in sordina è diventato uno degli attori del momento. Finalmente il cinema si è accorto di lui e alla grande, lo abbiamo incontrato qualche giorno fa, Stefano Fresi. È un bellissimo momento e insomma molti registi si sono accorti di me e questa cosa mi fa molto piacere, perché non mi sarei aspettato un eco così grande da Smetto Quando Voglio. E ringrazio Edoardo perché mi ha offerto questo ruolo che mi è piaciuto tantissimo interpretare e quindi partecipa fortemente a questo momento. Aspetto questa prima di questo film con grandissima passione proprio. Beh, in Smetto Quando Voglio eri notevole sex symbol, dobbiamo dirlo, piacevi molto, pelle nera, invece qua ai Noi ti hanno dovuto un po' imbruttire, com'è questa storia? Esatto. Faticosamente vorrei dire, sì. Sono stata molto dura, però ci sono riusciti i disgraziati, perché mi hanno rapato praticamente nemmeno a zero, che già sarebbe stato un'onorevole boccia, invece no, mi hanno fatto proprio questa bella chierica sopra e lasciato questi capelli unticci di lato, quindi insomma mi hanno massacrato. E la mia cara signora, che tu conosci, Cristiana, devo dire che ha avuto una dimostrazione d'amore infinita, perché mi ha guardato, non ha detto niente per 2 minuti, poi ha fatto: beh, almeno so come andrà a finire. Invece mio figlio mi ha detto: papà, chi è stato? Uno strappatore di capelli. Beh, vedi, così impara subito. Il tuo ruolo è uno dei ruoli dei falliti, di questi ragazzi che proclamano a un certo punto del film orgogliosamente il loro fallimento, ma anche la voglia di rinascita, che è molto importante. È assolutamente importante, fondamentale, perché quando si fallisce perché si sono fatte le scelte sbagliate, cosa che io faccio continuamente nel film, perché io faccio fallire il negozio di famiglia, perdo la moglie, quindi chiaramente non mi da come mi vesto si vede che uomo sono dal punto di vista delle scelte, privo di gusto. Quando è così che si fa la scelta sbagliata, forse arriva il momento in cui la vita ti sta talmente stretta, ti senti talmente infelice, che hai bisogno di reagire in qualche modo e giocarti il piano B, il piano di fuga. Ora, il mio personaggio in particolare ha bisogno di una locomotiva che lo traini, perché da solo non sarebbe nemmeno capace di mettersi in discussione. Ci pensa Claudio Mendola, che interpreta meravigliosamente Sergio, che dà la sferzata di energia al gruppo e lo convince prima il personaggio di Luca Argentero, Diego, e poi il personaggio di Edoardo Leo, che è Fausto, li convince a lottare contro il nemico comune. E io all'inizio mi sento solo e perso in mezzo a questi pazzi che vogliono sfidare la camorra, e invece poi alla fine mi trascinano, e questo mi fa riprendere le redini della vita in mano, mi fa risentire un uomo capace di fare una scelta e portarla avanti. Quindi un po' c'è un riscatto di questo personaggio così, così negativo e inetto. Il sabato del villaggio. Insieme per questa puntata del sabato pomeriggio di Radio 24 siamo tornati a Milano dopo una puntata a Sanremo, ma avete sentito, abbiamo parlato di nuovo di musica e continuiamo a parlare di nuovo di musica in questa seconda ora del sabato del villaggio, dove ormai lo sapete, il villaggio è il nostro villaggio globale, questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, e nella terza ora dalle 17 alle 18 il nostro consueto appuntamento torna a RadioTube con Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come sempre potete contattarci, siamo qui in diretta, sono le 16, 7 minuti e 57 secondi perlomeno per l'orologio della diretta di Radio 24, chissà, adesso controlliamo se è puntato giusto. Il numero per i vostri sms è 349 238 6666. Se invece siete come me con il tablet o lo smartphone davanti, per contattarci su Twitter c'è il mio account @MartaCagnola o l'hashtag ISDV, il sabato del villaggio, le iniziali. Ma cosa succede in questa seconda ora del sabato del villaggio? I libri del momento, lo strano caso di un volumetto che parla di fisica e resta in cima alle classifiche, e tutte le alternative alle 50 sfumature. I brand più famosi del mondo e il fenomeno dei tutorial in rete nel nostro spazio dedicato alle nuove tendenze. Tanti tutorial però riguardano la bellezza, ma anche in TV c'è il boom delle trasmissioni che parlano di trucco. Chissà cosa ne pensa il più grande truccatore italiano, che ora però si dà al talk show, Diego Dalla Palma. Ma prima un grande momento per un paese che fa il suo grande ritorno discografico. Brano che sentite in sottofondo lo avete ascoltato tutti, si intitola Fade Out Lines ed è in heavy rotation nelle radio italiane, nella top 10 della classifica italiana dei singoli più ascoltati, è platino, ha la certificazione di platino della FIMI, è in origine una canzone di Phoebe Kildare and the Short Straws remixata da The Evner. The Evner, nonostante il nome inglese, è un DJ e produttore francese che si chiama Tristan Cazarat ed è sbarcato a Sanremo. L'anno scorso il festival ci fece conoscere un altro francofono che ha dominato le classifiche in tutti questi mesi, Stromae. The Evner è il nuovo alfiere di quella che si definisce la French Touch, una corrente musicale nata in Francia negli anni 90, diciamo una sorta di declinazione francese della house music, che ora torna prepotentemente a scalare le classifiche, appunto prima con il belga e francofono Stromae e ora con The Evner. Noi a Sanremo lo abbiamo incontrato. Abbiamo incontrato proprio questo nuovo fenomeno di Evner. C'est pour moi une très grande responsabilité parce que je trouve Stromae est un artiste formidable et per me è una grande responsabilità perché trovo che Stromae sia un artista formidabile, anzi formidable, per fare un gioco di parole con la sua canzone. Ma per me è un grande onore essere in Italia e sono allo stesso tempo emozionato e sorpreso per il sostegno che ho avuto dal pubblico italiano. Mia nonna è italiana, sono nato a Nizza, ho vissuto a Nizza, ci ho passato tutta la mia infanzia e sono onorato di rappresentare la Francia da voi. Con Phoebe abbiamo questa grande fortuna di portare avanti la French Touch attraverso l'Europa. L'avventura della French Touch attraverso l'Europa. È un grande momento per la musica elettronica francofona. Stromae è belga, tu sei francese. È un grande momento per la cosiddetta French Touch. Allora, je pense que la French Touch ha durant cette année qui arrive, ha un grand avenir. Penso che la French Touch abbia un futuro enorme davanti. soprattutto in quest'anno che sta per arrivare. Ci sono dei grandi talenti, soprattutto nella musica elettronica, che stanno per esplodere e verranno presto esportati in tutto il mondo. La French Touch ha avuto un periodo un pochino più spento per qualche anno nel mondo della house e dell'elettronica. Sono contento di far parte di questo momento di rinnovamento, di freschezza che sta arrivando dal nostro paese. Sei un DJ, ma sei anche un musicista, e tutto questo si riflette nel tuo primo album, che è The Wanderings of the Avener. Cosa contiene? Che cosa ci puoi raccontare? Allora, moi j'ai un background de musicien, en fait, j'ai fait du piano très tôt, à l'âge de 5 ans, et j'ai découvert la musique électronique. Io ho un background di musicista, ho cominciato a studiare pianoforte all'età di 5 anni e ho scoperto la musica elettronica da adolescente. Per me è stato un vero virus, ho provato subito una grande empatia. Ci sono proprio totalmente cascato con tutto me stesso. In questo album cerco di mixare un po' le mie influenze, il mio background di musicista e il mio background di DJ. Sono stato resident per molti anni nei locali della regione di Nizza e attraverso tutti gli stili di musica che ho potuto incontrare cerco di abbracciare il mio eclettismo. Ci sono brani che puoi ascoltare il mattino, brani che puoi ascoltare al lavoro, brani che puoi ascoltare in discoteca. È un album con tutte le mie influenze, pieno di brani di cui mi sono innamorato nella mia vita. Quindi sì, si passa per molti stili differenti attraverso il veicolo della Deep House, il blues, il folk, l'R&B, il rock. Questo eclettismo e il veicolo della Deep House mi hanno permesso di mixare tutte le mie influenze e di unirle in un insieme omogeneo. Questo eclettismo e l'outil de Deep House mi ha permesso di mixare un po' tutte queste influenze e di poter rendere qualcosa di più o meno omogeneo con tutto ça. Per un DJ come te, una delle cose più importanti è trovare la voce giusta. Pour moi, ça a été vraiment, je pense, la meilleure chose qui puisse m'arriver, c'est de rencontrer Phoebe. Per me, la cosa migliore che mi sia capitata è stato proprio incontrare Phoebe e questo pezzo straordinario, Fade Out Lines, per il quale è stato un vero colpo di fulmine. È stato proprio l'inizio della mia avventura. Trovare le voci è la cosa più difficile. Ci sono artisti con bellissime voci che non sanno comporre e viceversa. Sì, trovare delle belle voci per me è la cosa più difficile. Il tuo album è composto in gran parte da rework, cioè brani preesistenti e riletti. C'è Sixto Rodriguez, c'è John Lee Hooker. Come hai scelto questi brani? Par coup de cœur, en fait. C'est des morceaux que j'adorais écouter à la maison. Sono pezzi di cui mi sono innamorato, pezzi che mi piaceva suonare a casa, ma che da DJ non potevo suonare perché non erano abbastanza energici, potenti o erano troppo vecchi per il mio DJ set. Allora ho deciso di lavorarci sopra a modo mio, per dare loro una seconda giovinezza e farli riscoprire al pubblico. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than slow growing fear. E per farvi capire qual è stato l'apporto di The Avener, questa che sentite era la versione originale del 2011 di Fade Out Lines. Come sentite, era molto molto diversa. Abbiamo conosciuto The Avener, abbiamo parlato del fenomeno della French Touch. Tra poco invece parleremo di libri. Ora però è il momento di aggiornarci su tutto quello che sta succedendo su strade e autostrade. A tra pochissimo. Il sabato del villaggio. E dopo aver ascoltato The Avener, lo dicevo, è il momento qui al sabato del villaggio di parlare di libri, quindi entriamo in atmosfera con una musica e sentiamo cosa ci ha preparato la nostra Alessandra Tedesco. La matematica che mi perseguita. I numeri numeri, non li sopporto più, la matematica che mi perseguita. In realtà non stiamo parlando proprio di matematica, ma stiamo parlando di fisica. Io però per le scienze sono ugualmente negata, allora mi affido nelle sapienti mani della nostra esperta di libri, Alessandra Tedesco. Buongiorno Alessandra. Olè, se ti affidi a me, guarda, credo di aver preso l'unico 3 in vita mia al liceo proprio in un compito di matematica. Io perché... di fisica. Ah, io la fisica già l'amavo di più, ma la matematica avevo 3, perché la professoressa sosteneva avevo copiato. Quindi hai copiato male, perché 3 se copi male, sì. Giustamente. Vabbè, io ero appassionata di materie umanistiche, letterarie, non per niente faccio la cacciatrice di libri adesso, mica la cacciatrice di numeri. Guarda, tutto uguale. Alessandra, ma perché parliamo di fisica? Parliamo di fisica perché è il libro di cui si sta parlando al momento in assoluto di più. Sembrerà strano, ma si intitola 7 brevi lezioni di fisica. È stato scritto naturalmente da un fisico italiano, Carlo Rovelli, pubblicato da Adelphi. La cosa curiosa di questo libro è che è arrivato primo assoluto in classifica, cioè non primo della saggistica, ma primo fra i romanzi, tutto nella classifica generale dei 10 libri più venduti in Italia. Ed è un libro di cui si sta parlando molto, anche perché l'autore è stato ospite a Che tempo che fa, la trasmissione di Fabio Fazio, che in genere boom fa salire le vendite subito dei libri. Allora io l'ho preso perché ho detto vabbè, anche una schiappa come me in matematica e fisica, vediamo se riesce a capirci qualcosa. Certo. Innanzitutto è un libro molto facile, molto divulgativo, ecco, scritto in modo semplice, sono 85 pagine, quindi ce la possiamo fare. Sono le 7 lezioni di fisica, appunto, come dice il titolo, divise per temi. La più bella delle teorie, che è quella della relatività di Einstein, poi ci sono i quanti, l'architettura del cosmo, particelle, grani di spazio, la probabilità, il tempo e il calore dei buchi neri. Insomma, cose che apparentemente sono piuttosto complicate, ma devo dire che Carlo Rovelli fa di tutto per semplificarle. Questo libro è uscito a ottobre ed è stato in lenta crescita, cioè ha sempre venduto, non è stato solo l'effetto Fazio, però per intenderci all'inizio Adelphi aveva pubblicato solo 8.000 copie. Sai Marta quante ne hanno vendute finora da ottobre a oggi? Quante? 100.000. Ah beh, non avevano fatto la previsione giusta, da 8.000 a 100.000. Però sì, ci sono state 9 ristampe perché non si aspettavano un successo, quindi è stato un successo in crescita da solo e chiaramente poi rafforzato dall'effetto Fazio, chiamiamolo così. E poi vabbè, lo diciamo anche se ci riguarda, noi siamo come si dice timidi da questo punto di vista, però Carlo Rovelli aveva iniziato a scrivere questi articoli di fisica sul domenicale del Sole 24 Ore, poi l'idea di farne nascere un libro è arrivata dopo, quindi siamo ancora più contenti che il suo libro sia il libro di cui si parla di più in questo momento. Beh, Rovelli ovviamente è, come dire, innamorato, pazzo di Einstein. Einstein compare in tutte le pagine di questo breve libricino. E allora, guarda Marta, farei risentire un piccolo estratto appunto della puntata di Che tempo che fa del 1 febbraio, in cui Rovelli era ospite, in cui appunto parlava di Einstein e della sua idea di scienza. Einstein è colui che ha per primo capito che il grande successo della fisica newtoniana non bastava farla vera per sempre, e quindi ha riaperto il gioco e ci ha rimostrato quanto il mondo è complesso al di là di quello che conosciamo già e che c'è sempre di più da imparare. Io penso che la scienza non è bella perché abbiamo imparato questo, è bello perché ci dice quanto ancora non sappiamo, continua a dirci che ci sono cose che non sappiamo. La bellezza della scienza è questo guardare al di là, questo sapere che ci sono delle cose che non sappiamo ancora, andarle a vedere, e lì sull'orlo di quello che non sappiamo c'è il suo fascino. Alessandra, mi hai quasi convinto, anche se, devo dirlo, appassionata di fisica forse non lo sarò mai, sicuramente sono già appassionata di film e quindi io ascolterei insieme a te il trailer di un film che esce proprio questo fine settimana, perché ne abbiamo parlato anche con Franco D'Assisi. Insomma, il film di questa settimana che si traduce, insomma, ce lo spiegherai tra poco in un libro, è Mordecai. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? Mordecai. Mordecai? Charlie Mordecai? Uno stupidotto, in realtà. Oh, ritengo di aver sparato a John. Ottima mira, signore! Uomo a terra! Allora, abbiamo parlato di Fabio Fazio e dell'effetto Fazio, di, insomma, quando uno scrittore va ospite da Fazio, per quanto tempo riesce a monetizzare questa ospitata? Se uno scrittore va da Fazio è felice, perché almeno nelle due settimane successive all'ospitata, boom, il libro, insomma, in genere raggiunge le vette delle classifiche. Però accade ultimamente invece che i libri tornino in libreria dopo essere diventati film. Anche libri anzianotti. Sì, guarda, infatti abbiamo sentito il trailer del film Mordecai. Io ti ho portato il libro, facciamolo sentire come sempre alla radio. E c'è Johnny sulla copertina. Twitteremo la copertina, perché tu la settimana scorsa eri a Sanremo, quindi ti ho dovuto dimostrare che avevo sì, in mano i libri. È vero, invece è vero. Stavolta li vedi qui davanti e poi naturalmente li twittiamo per gli ascoltatori con l'hashtag ISDV. Oh, che brava, del villaggio, che brava. No, perché Daniele Bellaso non l'ha ancora imparato dopo mesi. Eh, si beh, è un uomo, quindi cioè. Allora, dicevamo Mordecai. In copertina c'è il tuo amatissimo Johnny Depp, perché appunto è protagonista del film. Sì, sì. Il libro l'ha scritto Kirill Bonfiglioli. In realtà si tratta di una trilogia con questo personaggio Mordecai. L'ha scritto fra il 72 e l'85, questi tre libri. Questo quindi era stato scritto nel 72. Era stato pubblicato in Italia all'epoca da Neri Pozza, avendo insomma un medio successo, diciamo così. Diciamo subito che Bonfiglioli ha uno humor molto inglese, molto british, molto sofisticato, e nel suo paese è stato veramente famosissimo. Dici nel suo paese perché nonostante il cognome italiano, lui non era italiano. No, è inglese, nel senso che era figlio di madre inglese e padre italo-sloveno, quindi insomma c'era un pizzico d'Italia in Bonfiglioli, forse anche un pizzico di umorismo, chissà. E ti dicevo, questa trilogia è stata scritta fra il 72 e l'85, poi Bonfiglioli purtroppo è morto mentre stava scrivendo il quarto volume. Allora un altro scrittore ha preso i suoi appunti, ha preso quello che aveva scritto, ha continuato a scriverlo, l'ha completato ed è uscito anche il quarto romanzo, naturalmente a doppia firma. In vista dell'uscita del film, ovviamente c'è stata, come dire, una gara per riconquistare la pubblicazione, i diritti di pubblicazione della trilogia di Mordecai. In Italia l'ha conquistato la PM, viene proposto in una nuova traduzione di Stefania Bertola, che è una scrittrice, diciamo, di, come dire, narrativa ironica italiana, e tutti i tre volumi della trilogia saranno pubblicati in Italia sempre da PM nel 2015. Per capire chi è Mordecai, insomma, Charlie Mordecai è un mercante d'arte di nobili origini che si diverte a vivere in modo disonesto, ama il rischio, ama bere superalcolici e si fa accompagnare dal maggiordomo Jock, che ha questa caratteristica: lui toglie di mezzo, come dire, gli scocciatori con un tirapugni in ottone. Giusto. Che dire. Tutti ottima. Noi andiamo in giro con una mazza da baseball da una parte e un tirapugni d'ottone dall'altro. E devo dire che la definizione più bella di Mordecai l'ha data una mia amica, che l'ha definito la pantera rosa intellettuale. Bello, mi piace molto. Tra l'altro, libro, anzi trilogia, che viene recuperata grazie a una versione cinematografica. È successo ultimamente, ci sono anche altri casi. Sì, ne avevamo parlato anche qui al Sabato del Villaggio, di libri che erano stati pubblicati, per esempio, con il film La teoria del tutto, che era preso da un libro che era poi la biografia di Stephen Hawking ed era già stata pubblicata in Italia diversi anni fa. Ma ci sono anche altri casi di, come dire, romanzi vintage, chiamiamoli così, che vengono poi ripescati dopo un po' di tempo e diventano grandi successi. Sicuramente il caso più clamoroso in Italia negli ultimi anni è stato Zia Mame. Oh, che bello, quanto mi sono divertita. Anche mi sono divertita un sacco. Era dell'americano Patrick Dennis, lui l'aveva scritto nel 55, in Italia per la prima volta era stato pubblicato nel 59. Adelphi l'ha riproposto nel 2009 facendolo diventare il caso editoriale dell'anno. Ad oggi ha venduto circa 320.000 copie. Bello, bello, mi è piaciuto tanto. Beh, passiamo allora a un altro film, anzi a un altro libro. Vabbè, sentiamo cosa ci ha preparato Alessandra. I put a spell on you because Put a Spell on You. Ma siamo ancora alle 50 sfumature? No, dimmelo subito, perché mi alzo e me ne vado. Se siamo ancora alle 50 sfumature, no, di Grigio Alessandra, me ne vado prima io, perché abbiamo già parlato. No, scherzi a parte, okay, dai, su. È il libro di cui si sta parlando di nuovo per il film. A me non è piaciuto granché, va bene. Però ho deciso di inaugurare una nuova rubrica qui al Sabato del Villaggio, sì. Possiamo chiamarla Altro che sfumature, non solo sfumature, oltre le sfumature, insomma, possiamo andare a qualcosa al di là delle sfumature di Grigio? Sì, diciamo che le avete lette, vi sono piaciute, bene, ma adesso esageriamo, qualcosa ancora di meglio, diciamo così. Ancora di meglio, qualcosa di ancora più erotico, vabbè, siamo in fascia protetta, non possiamo dire nulla. No, però vi devo dire, Marta, ho letto negli ultimi 3 giorni questo romanzo che mi ha veramente fulminato, si intitola Atti osceni in luogo privato, l'ha scritto Marco Missiroli, pubblicato da Feltrinelli. Chi si ricorda del Missiroli, diciamo un po' cupo, un po' dalle atmosfere, insomma molto quasi esistenzialista, che guardava molto all'interiorità dei personaggi, avrà uno shock, perché effettivamente in questi Atti osceni in luogo privato ci sembra un po' un Philip Roth contemporaneo, un Philip Roth giovane, perché poverino Philip Roth campa ancora, quindi non possiamo dire che non sia contemporaneo. Questo romanzo è l'educazione sentimentale e sessuale di un giovane italo-francese fra, diciamo, la Parigi della metà degli anni 70 e la Milano degli anni 80. Io ve lo consiglio spassionatamente, non dico che poi vi rimborso se non vi piace, però insomma, Marco Missiroli, Atti osceni in luogo privato. Ti faccio vedere la copertina che adesso twittiamo. Ah, è un po', no, perché io ti stavo chiedendo se è vietato ai minori, e secondo me un po' sì. No, secondo me no. Ma non lo so, Alessandra, allora io questa settimana lo leggo, poi la prossima settimana ti dico. Ci ritroviamo sabato prossimo al Sabato del Villaggio, invece il cacciatore di libri stasera avrà Lars Kepler, la coppia di svedesi, lui si chiama Alexander, lei si chiama Alexandra, sono marito e moglie e firmano questi thriller veramente paurosi de paura con lo pseudonimo Lars Kepler. Li sentirete stasera alle 22 e potete seguirmi su Twitter come Ale Teddina. Grazie Alessandra, alla prossima settimana. Rieccoci ancora con insieme con il Sabato del Villaggio, il nostro villaggio globale, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, nelle nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, libri. Ne abbiamo appena parlato con Alessandra Tedesco, che ci ha parlato di un libro che mi sono chiesta se fosse vietato ai minori oppure no, dalla copertina mi sembrava. Se volete vederla, la nostra Alessandra Aurora ce l'ha twittata e giudicate voi. Il mio account Twitter @MartaCagnola, il suo Ale Teddina, e vedete un po' se secondo voi è un libro adatto a tutti o un po' fortino. Vabbè, a me incuriosisce molto, quindi lo voglio assolutamente leggere. Ma dicevamo musica, TV, serie TV, cinema, ma anche tecnologia, libri e consumi. Buongiorno mondo! Cominciamo la giornata! Salti energizzanti! 1, 2, 3! Sono troppo pompato! Maestri costruttori, no! L'Or Business vuole porre fine al mondo come lo conosciamo, ma c'è ancora una speranza, quello speciale. Io lo so cosa pensate, è la persona meno qualificata per guidarci. E avete ragione. Sei troppo deludente, sotto tanti aspetti. Non sono quello speciale, sono uno come tutti gli altri. Hai le qualità per essere quello speciale, io credo in te. Ascoltato un piccolissimo brano di un film che ha fatto un buon successo l'anno scorso, ma come mai? Torniamo a Lego Movie, lo chiediamo alla nostra esperta di consumi e di nuove tendenze, Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio Maria Luisa. Buon pomeriggio Marta, un saluto agli ascoltatori. Sì, perché la notizia di questa settimana, parliamo di Lego che ha superato la Ferrari e diventa il brand più potente al mondo, così almeno ha stabilito stabilito la classifica redatta come ogni anno da Brand Finance. Brand Finance è una società di consulenza specializzata nella valutazione delle grandi marche, una classifica appunto quella di quest'anno in cui il colosso dei mattoncini colorati ottiene ottimi punteggi in tutti i principali indicatori e supera, oltre che la Ferrari che scivola al nono posto, nomi del calibro di Red Bull, Unilever, L'Oreal, Burberry, Rolex, mentre Nike è al decimo posto subito dopo la Ferrari appunto. Per una volta dunque a primeggiare non c'è un brand dell'innovazione tecnologica, ma un'azienda che ha quasi 100 anni di storia ed è legata ai ricordi dell'infanzia di moltissimi di noi. Allora Marta, vogliamo scoprire qual è il segreto di un successo che dura da così tanti anni? Lo facciamo insieme a Camillo Mazzola, che è il direttore marketing di Lego Italia. Buon pomeriggio. Buongiorno. Buon pomeriggio. Allora, il brand più potente al mondo, che effetto vi fa? Beh, fa un effetto molto forte. Anche solo la parola potente, forse in italiano tradotta, fa uno strano effetto. In inglese è powerful brand, probabilmente brand più influente, però in ogni caso siamo molto onorati di essere stati nominati in questa classifica addirittura al primo posto. Mi sembra troppo dire che abbiamo superato la Ferrari. Da tifoso, onestamente, per pudore mi sento di non ripetere questa cosa, però sicuramente siamo onorati di questo. Potete sempre fare una linea ad hoc che forse c'è già, però per come dire Marta, la Ferrari per ripagare un po' il dispetto, c'è già una linea casualmente, Ferrari? Casualmente sì, l'abbiamo avuta in passato e l'avremo anche quest'anno, quindi riparate il torto. Ripariamo il torto e speriamo di fare un sorpasso insieme. Esatto. Ci racconta qualche numero, qualche aneddoto della vostra azienda che ha così tanti anni di storia? Ogni anno fabbrichiamo circa 500 milioni di giochi, quindi pensiamo a quanti bambini ci sono al mondo. 500 milioni di bambini ricevono un gioco quest'anno e il tutto si basa su un sistema di gioco, il mattoncino, che ha infinite possibilità. No, mi verrebbe da dire una credibilità, mi perdoni la battuta, costruita mattoncino su mattoncino, ma esatto. Come si resiste, questa è la mia curiosità, all'avanzare del tempo e soprattutto alle abitudini diverse di giocare dei bambini, perché i bambini giocano col tablet ai videogiochi, ma comunque costruiscono con i mattoncini, come vanno d'accordo queste cose? Beh, noi siamo riusciti a conciliarle, nel senso che il nostro gioco fisico, chiamiamolo di plastica e mattoncini plastica, in questo momento convivono anche con dei videogames a base di mattoncino, quindi c'è anche il mattoncino virtuale e per noi questo è assolutamente in sinergia, nel senso che uno fa venire voglia di giocare con l'altro e chi gioca col virtuale prima o poi gli viene voglia di toccare veramente in maniera fisica quello che ha costruito nel videogioco. Ci sono delle linee più amate da sempre, dei long seller cosiddetti? Sì, ci sono le linee classiche di sempre, sto parlando della linea City, che è quella linea che si è dedicata alla realtà, dove fanno la parte del leone le linee come polizia, pompieri e i treni. Però abbiamo aggiunto in passato, proprio per rimanere sulla cresta dell'onda, delle linee, chiamiamole più di fantasia. Una è l'ultima che abbiamo lanciato, è la linea Cima, che è una nostra property interna, ma anche prendendole, tra virgolette, a prestito all'esterno. La linea, ad esempio, più calda del momento è la linea Star Wars in Italia. Quindi... Infatti c'era qualcuno che suggeriva che adesso dovreste fare un Lego 50 sfumature di grigio, perché ormai col nuovo il video in rete c'è. Ecco. Diciamo che al nostro quartier generale si sono un po' scandalizzati. Allora non lo farete. Non... Che cosa dovete dire e non dire se vi fanno questo tipo di domande? Preferisco dire no comment. No comment. Ci ha fatto pubblicità. Grazie a Camillo Mazzola per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie mille, adesso però è il nostro momento dei consigli anticrisi, consigli per spendere meglio. Chissà cosa ci avrà portato oggi Cristina Lazzati. Io lo so già. Tu hai già tutte le indiscrezioni. Esatto. Come risparmiare sui corsi di cucina, di trucco, di ballo e quant'altro usando i tutorial in rete. Marta, grande risorsa per tutti noi. Ci racconta tutto appunto come sempre, già in collegamento la direttrice di GDO Week e Marco. Ciao Cristina. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Eccoci con i tutorial, che questa è una parola che in questi giorni se ne sta parlando tanto. Cos'è un tutorial? Di fatto è un video che ti spiega esattamente come si fa. Non so se a voi mai è capitato di leggere una ricetta e dice: adesso pulite, non so, il cavolo di, non so, di Messina, per dire, non esiste, ma uno dice: bene, già faccio fatica a capire quale tra queste verdure che ho davanti è il cavolo di Messina, ma poi come si pulisce? Allora, lo si sbuccia, lo si buttano le foglie, eccetera, eccetera. Beh, oggi tutorial che ci spiegano come pulire le verdure, piuttosto che come preparare le salse base, eccetera, eccetera, in maniera tale che uno vede e capisce esattamente quello che deve fare. Quindi moltissimo è in cucina, ma molto dei tutorial è uscito dalla cucina per spiegarci un sacco di cose, così si risparmiano anche tantissimi soldi in corsi e oltretutto sono on demand, nel senso che se uno vuole imparare basta che si attacchi, in linea di massima sono quasi tutti su YouTube oppure su dei canali specialissimi. Facciamo qualche esempio: dallo zafferano sono bravissimi, devo dire, ce ne sono anche altri per cui non si offendono quelle che non cito, però sicuramente già lo zafferano come sito, app, eccetera, è quello che di più ti spiega il tipo di coltello da utilizzare, come si chiama, dove prenderlo, eccetera, fino ad arrivare ovviamente alle ricette di cui credo siamo tutti un pochino più abituati. Abbiamo detto, non ci fermiamo in cucina, perché lì è anche abbastanza semplice, siamo tutti più abituati, ma pensate che una cosa che ha colpito moltissimo è che esiste un canale family, in questo caso andiamo in America, che si chiama Kitty's Mama su YouTube, perché esistono questi canali, in Italia non sono diffusi, però le famiglie che fanno una specie di reality su se stessi. Ma questi cosa hanno di particolare? Che tra questi tre bambini che appartengono alla famiglia, Noah, John e Emma, Emma in particolare, che oggi ha 11 anni, ma questo canale è partito 3 anni fa, è una make-up artist bravissima, fa dei tutorial per bambine come lei, in cui ti spiega esattamente come truccarti da Monster High, da Barbie, persino Little Pony. E ovviamente non mancano tutte le principesse Disney, per cui aiutata dalla mamma, nel senso che la mamma tiene di fatto la telecamera, per il resto questa bambina spiega con parole chiarissime come truccarsi. Fate conto che la mia bambina di 6 anni, che ha scoperto Emma, ormai ogni volta che si avvicina a carnevale, festa, eccetera, eccetera, lei è su YouTube a guardare cosa fa Emma, quindi pensiamo ormai in che mondo viviamo. Cristina, tra l'altro noi tra poco parleremo ancora di trucco e anche un po' di tutorial, perché avremo un ospite molto speciale. Io sono un'appassionata di questi tutorial di trucco, proprio appena ho un momento libero me ne guardo uno delle più famose italiane o americane, mi piacciono davvero tanto. Anche perché di fatto impariamo e poi abbiamo una vastissima scelta, appunto, dal bambino al... E come si è messa coi capelli? Perché anche lì abbiamo un sacco di tutorial. Allora, io ho scoperto che esistono un sacco di siti e anche di tutorial di signore afroamericane. Siccome io ho i capelli ricci, o lo dico anche a Valeria in regia, sono una mano santa. Ci spiegano come domare i capelli ricci, perché loro sì che lo sanno. Certo, ovviamente hanno risolto, come dire, sicuramente sono quelle che si sono poste per primo il problema, ecco, mettiamola così. E anche lì torniamo ai bambini, che è un altro problema, cioè state le trecce, gli chignon, eccetera. Non so se è mai capitato alle mamme che ci ascoltano di avere il saggio di danza e dover far fare lo chignon alla bambina. Ora, il saggio alle 8:30, la parrucchiera chi dà posto alle 4, dalle 4 in poi la bambina con questo chignon non si può più muovere. Allora uno dice: ma perché non imparo da sola? E Pianeta Mamme ci è venuto in aiuto con il suo canale di YouTube e ha preso questo parrucchiera per bambini Tati Kids di Milano e ha chiesto di fare una serie di piccoli tutorial sullo chignon per il ballet, i boccoli, ma anche come tagliare la frangetta, perché diciamocelo chiaramente, non portare un bambino a tagliare la frangetta costa un sacco di soldi e linea di massima uno dice: sono capace anch'io. Beh, ci sono dei piccoli trucchi per cui insomma il bambino non va con la frangetta, che in realtà è una specie di virgola, magari sbagliate, lì sono tragedie per mamma e per bambino. Io, Marta, devo ancora imparare la treccia attaccata, te la ricordi? Bella. Ai nostri tempi andava moltissimo. Sì, adesso ci sono tutte quelle che girano attorno alla testa, non so come si fanno, dobbiamo trovare i tutorial. Treccia francese, basta cercare treccia francese ed esistono. Grandissima Cristina, va bene, stasera mi applico già, così mia figlia è contenta. Perfetto, poi ovviamente se vogliamo andare avanti, non pensiamo solo ai bambini e non solo al trucco e parrucco, ma anche, non so, lo yoga ad esempio. C'è un canale che si chiama La Scimmia Yoga, dove ci sono dei corsi di tutti i generi dedicati allo yoga, per cui c'è lo yoga per principianti, ma anche lo yoga per le gambe, per gli addominali e anche quello per rilassarsi, un po' antistress. Durano più o meno i corsi, ci sono dai corsi di 30 minuti ai corsi di 7, 8, 10 minuti e quindi in linea di massima con musica di sottofondo, eccetera, se si chiude gli occhi e si crea un po' di atmosfera a casa propria è come fare una lezione privata con il sottofondo dell'insegnante di yoga. Poi se invece vogliamo divertirci, la danza ovviamente ci dà di tutto e di più, e per cui abbiamo dal tango para todos, che si spiega da solo, Channel, dove questo signore Gianni Tumbarello ha creato proprio un canale dedicato al tango in cui ci sono una serie di lezioni fatte con famosi maestri di tango dove si insegnano i passi. Il tango, da quello che ho capito, non ha bisogno, cioè non deve durare due ore, ogni tutorial è dedicato a un passo, per cui poi uno si fa la sua collezione e si disegna il suo ballo. E infine, per chi vuole tornare in balera, c'è anche il ballo liscio con Pomodoro Studio Dance, dove polka, mazurka e foxtrot la fanno da padroni, e anche lì ci sono di tutti i generi, tutti i tipi, e si può imparare se si vuole, insomma, dedicarsi anche a queste vintage, a queste danze più vintage. Beh, straordinario, io stasera proverò la polka, Maria Luisa. Tu che tutorial provi stasera? Io mi darò al tango oltre che alla treccia francese, tutte e due insieme. Cristina, si è esaurito il tempo a nostra disposizione, dobbiamo andare a correre a fare i nostri tutorial. Adesso io però vado anche a twittare tutti i siti che hai dato. Cristina, grazie per essere stata con noi. Grazie a voi, un abbraccio. Ciao, e saluti a tutti. L'appuntamento a sabato prossimo, invece con te Maria Luisa, l'appuntamento a domani. Domani alle 15, come sempre, essere avere. Ciao Marta, un saluto a tutti. Il sabato del villaggio. E stavamo parlando di tutorial con Maria Luisa Pezzali e Cristina Lazzati. Adesso vi sto preparando il tweet. Molti tutorial, lo dicevamo, riguardano proprio la bellezza, ma anche in TV c'è il boom delle trasmissioni che parlano di trucco. Chissà cosa ne pensa il più grande truccatore italiano, che ora però si dà ai talk show. Lo staff di Nessuno Mi Può Giudicare ha appena completato il look delle nostre ospiti. Ma per il risultato del confronto ora saranno determinanti la personalità, la spontaneità e la sincerità. Nessuno mi può giudicare. Non è solo il titolo di una canzone famosissima, non è solo un'affermazione che io condivido pienamente, ma è anche il titolo di una trasmissione ogni sabato pomeriggio, quindi va in onda esattamente quando c'è il sabato del villaggio, a me tocca registrarla, va in onda su Rete 4, il conduttore è il grande, il leggendario Diego Dalla Palma. Buongiorno Diego, leggendario. Leggendario perché ho l'età ho l'età in cui no. Una specie di limbo leggendario, perché è così. Vabbè, no, ciao, dai, sei per noi. Buonasera Diego, per noi sei un'assoluta certezza. Io so che Diego, posso confessarti una cosa? Secondo me il truccatore è meglio dello psicologo. Cioè, secondo me, tutte le donne, quando lo facevo in realtà, penso che la differenza l'ho fatta ascoltando a fondo e profondamente le storie che mi venivano raccontate. Ecco. Adesso ovviamente mi manca quel tipo di collegamento, però io credo che effettivamente se uno si deve occupare dell'immagine di una persona deve essere in sintonia con quella persona, starla a sentire, capirla, che sia una donna o sia un uomo poco conta, ecco. No, sai, non lo dico a caso, perché con la conoscenza che poi hai maturato tu negli anni in cui hai incontrato le signore dello spettacolo e non solo, secondo me hai conosciuto alla fine anche l'animo femminile, dai. Beh, l'animo femminile è un mondo talmente misterioso che rimane sempre inesplorato alla fine, però sì, diciamo che ho sempre avuto molta considerazione della presenza femminile, dell'identità femminile, tanto è vero che anche nel mondo dello spettacolo prediligo sul palco e davanti alle telecamere o alle cineprese, francamente prediligo le donne, mi sembrano più intense, più vere, raccontano più storie differenti, sono meno omologabili e omologate, poi ovviamente ci sono le eccezioni, ma sono eccezioni che confermano la regola. Diego, nella tua trasmissione hai deciso di dedicare spazio appunto a un talk show appunto al femminile. Come ti sei trovato in questa veste? Perché tu hai condotto tante trasmissioni, però spesso si parlava soprattutto di bellezza, di fascino, invece questa volta hai deciso di dedicarti proprio alla conoscenza della donna, della persona. Mi trovo bene, perché questo è un gioco, il titolo della trasmissione francamente, il titolo della trasmissione è casuale, sia ben chiaro, non c'è un riferimento a quello che poi accade nella trasmissione, anche se sul finale in realtà c'è il pubblico che osserva ma non giudica, dà comunque una indicazione, se vogliamo chiamarlo giudizio, chiamiamolo giudizio, su che cosa, su quali delle due ospiti, in futuro speriamo di avere anche maschio e femmina, su quale delle due ospiti ha creato più empatia, quale è stata più sincera, quale è stata più autentica, quale si è espressa con più verità. Ecco, e quindi in quel caso lì però nessuno giudica, ma è fuori discussione che il pubblico da casa, attraverso le proprie segnalazioni più quello in studio, stabilisce poi quale delle due ha dato il meglio di sé. Ecco, è questo. Per quanto riguarda invece il fatto che tu hai cominciato a parlare di bellezza, di trucco, prima di te non si faceva in televisione, adesso cosa pensi del fatto che sia uno degli argomenti più frequentati, più amati, e, insomma, dopo la cucina viene la bellezza? Io penso che sia giusto, però guarda, lo dico a costo di darmi addosso da solo e di danneggiare anche me stesso, io penso che l'eccesso indubbiamente non faccia bene, e soprattutto porti a segnali anche che possono essere un po' anche pericolosi per la società. Troppe canzonette, troppe ricette, troppi specchi, troppe iniziative per vivere in maniera superficiale, oppure per dare sfogo soltanto ai propri istinti, diciamo quelli più superficiali, francamente non è mai un bel segnale. Secondo me ci vuole equilibrio in tutto. A me dispiace sentir dire, per esempio, che crescono sempre di più i programmi piuttosto che le indicazioni o gli appuntamenti sulla bellezza e sull'immagine, e chiudono le librerie. Ecco, questo è un segnale molto molto molto preoccupante, che porta inevitabilmente all'omologazione di cui parlavamo prima, e l'omologazione è sempre una brutta metastasi di un brutto e inguaribile male della società. Quindi truccarsi fuori e curarsi dentro, magari il macchiaggio serio, interiore. Sono stato troppo serio, però per il sabato pomeriggio la gente non ha voglia di sentirsi dire queste pizze da un soggetto come me. Ma no, scusa, bisogna passare in libreria e in profumeria tutte e due. Brava, vedo che hai messo l'ordine giusto, brava. Tutte e due libreria sono... e poi profumeria, sono... brava, brava. Io sono convinta che... Se non si sa, cara Marta, se non si sa, se non si cresce, se non si è consapevoli della propria personalità, se non si sa e se non si riesce a coltivare la propria personalità, è inutile mettersi i rossetti, gli abiti firmati, cercare di seguire la moda, non si è mai niente, non succede niente, si cade, invece se hai la tua costruzione piano piano, col tempo. Io adesso sono vecchio ormai e vedo che quello che ho costruito sulle pagine, sui libri, sulla musica, musica mi dà delle certezze così importanti che quando invece mi sconforto di fronte allo specchio, che vedo che purtroppo, ahimè, tutto comincia a cadere, l'unica cosa che sale sono le gengive, quindi non è che le situazioni migliorino, cambiano in peggio, però tutto questo bagaglio, quello che ho accumulato, mi porta delle certezze che mi fanno stare bene, mi fanno vivere ancora con intensità la vita, ecco, tutto là. E invece io devo dire che Diego Dalla Palma, l'ho visto questa settimana, è ancora un bel ragazzo, e allora io l'ho visto e lo posso dire perché alla radio non si vede, ma io l'ho visto e posso garantirlo. Diciamo Diego, un vecchiettino energico che ha ancora che ha ancora curiosità nei confronti della vita, ma il senso, mi è arrivato un bellissimo regalo, e so che hai il tempo contato, mi è arrivato un bellissimo regalo, cara la mia Marta, che si chiama consapevolezza. È un regalo che auguro a tutti, la consapevolezza di quello che si è, di quel poco che si è, di poco che si può fare. Grazie a Diego Dalla Palma per essere stato con noi. Un grazie Diego, a tutti, scusatemi se sono stato noioso, un bacio. La verità mi fa male, lo so. La verità mi fa male, lo sai. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu. Vabbè, l'abbiamo citata, nessuno mi può giudicare, non potevamo non ascoltarne almeno qualche secondo. Adesso però ci interrompiamo, andiamo a cambiarci d'abito, perché dopo il giornale radio delle 17 è il momento di dare la linea al nostro RadioTube. Quindi aspetto Daniele Bellasio e noi ci ritroviamo tra poco dopo il giornale radio.